Friuli nel mondo, 247esima trasmissione dedicata agli emigrati, ricordando gli alpini. Si è appena conclusa la grandiosa 47esima adunata degli alpini e Udine ha riservato alle decine e decine di migliaia di convenuti da tutta Italia, dai paesi europei, dalle Americhe, dall'Africa e dall'Australia un'accoglienza estremamente entusiastica ed affettuosa, quale del resto s'addice a questi cavalieri senza macchia e senza paura come sono stati definiti gli alpini. Poteva essere diversamente, anche per il fatto che Udine ha l'onore di ospitare la divisione Miracolo, la Julia, un nome prestigioso che unitamente a quelli delle altre divisioni alpine, Tridentina, Cuneense, Pusteria, Alpi Graie e Taurinense, ha creato quell'alone di leggenda che accompagna ovunque le truppe alpine. Non è ora il caso di rievocare qui episodi e momenti dell'eccezionale storico avvenimento che resterà a lungo nel ricordo di chi abbia avuto modo di partecipare o di assistere alla superba adunata nazionale. Ma consentiteci di ricordare, cari emigrati, un passo del saluto indirizzato dal sindaco di Udine, la città che ha atteso e gli ha detto le penne nere con l'affetto e la trepidazione di chi sente il perenne richiamo ai ricordi intensi del passato. Vostro ritorno a Udine dalla lontana adunata nazionale del 1925, omaggio alla capitale della Grande Guerra, passano davanti ai nostri occhi 50 anni di storia e con essi passa l'immagine della divisione Julia, due volte distrutta, due volte ricostituita. Nel ricordo dunque della nostra leggendaria divisione è racchiuso il senso di quel passato che voi, alpini di tutta Italia, ci chiamate ad evocare per trarre da esso non solo luoghi e volti incancellabili e memorabili eventi, ma soprattutto quella spinta ideale che ne perpetui, se non la storia, lo spirito nel tempo presente. I tempi sono profondamente mutati, ma non è mutato l'uomo, protagonista oggi del suo presente come ieri lo fu del suo passato. E l'uomo autentico lo troviamo ancora in voi, cari alpini, del cui spirito noi abbiamo sempre bisogno per dare luce ed aria alle nostre comunità civili. Sul ponte di quando l'8 febbraio 1943 il bollettino di guerra russo confermò la riconquista di Stalingrado e lo sfondamento del fronte tedesco nella grande ansa del Don, ci fu un solo elogio del comando supremo sovietico verso le truppe nemiche. Questo: soltanto il corpo d'armata alpino italiano deve ritenersi imbattuto sul suolo di Russia. Dal volume di Carlo Chiavazza Con gli alpini in Russia, scritto sulla neve, ascoltiamo ora, cari amici lontani, in omaggio a tutti gli alpini, ma soprattutto in memoria di quelli che non sono tornati, un episodio della più drammatica marcia da essi affrontata nei 100 anni di storia, marcia che porta anche un nome, Nikolajevka. A un tratto dalla campagna, da un villaggio vicino, giunge il suono di un doppio di campane. È un suono disteso, implorante, musicale, religioso. Nello scompartimento sono tutti desti. Chi può si è buttato ai finestrini e li ha aperti. Dalle bocche parte un grido solo. Le campane! Le campane! È un momento di intensi sentimenti, di ricordi, di visioni, di pensieri che carezzano l'anima. Da tanti mesi non sentivamo più il suono di una campana, delle campane al ritmo delle quali la vita di questi montanari si era alimentata nell'incanto delle valli, dove le chiese pittoresche si appoggiano ai campanili dalle voci gioconde. Le campane sono tornate stamane dopo la notte, l'ultima notte nella vettura di legno di terza classe. Le campane sono tornate a suonare per gli alpini che hanno capito la loro voce, e in un fremito di gioia le hanno salutate come vecchie amiche. Le campane davano con dolcezza l'estremo addio ai morti, il benvenuto ai vivi, recavano in dono ai feriti la speranza della salvezza, ai congelati il calore della guarigione. A tutti ripetevano parole sommesse, come la eco dolce delle acque tra i torrenti delle Alpi, dove le case si specchiano. E nelle case, cuori aspettano il ritorno di una penna nera. Bentornato, alpino, figlio mio, paiono dire. Ti abbiamo atteso tanto. Ma l'alpino non può rispondere. Le lacrime fanno velo agli occhi. La gola è chiusa dall'emozione. Rimane in silenzio, al finestrino della vettura o disteso nello scompartimento freddo di terza classe, mentre il treno continua la corsa nella pianura cecoslovacca. Oggi è il più bel giorno della nostra vita. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.